sento come Roma sotto la pioggia, in cede umida contemplando vestigia. Ma per me invece non ci sono colonne, archi, anfiteatri, capitelli dorati, fontane splendenti e busti sorridenti a segnare i chilometri dei miei passi, pietre miliari di battaglie perse, di guerre perdute, di salde sconfitte in amore. Spuntano fori di San Pietrini, acquedotti di fango, mura di capperi, crepe di cassonetti rivoltati e aree di cicche fradice, fedeli testimoni di nozze tra me e la mia città del nulla. Ho investito un cane. Non mi sono fermato. Dallo specchietto retrovisore lo vedevo capovolto contorcersi nel dolore. Non mi è dispiaciuto. Ero in curva. Vedevo che camminava sul ciglio della strada. L'ho puntato, sapendo che avrei girato all'ultimo momento, forse. Ma la bestia, vedendo i fari, mi è venuta incontro, come per salutarmi. L'ho preso di striscio, col paraurti anteriore che è di plastica. Gli amici che erano con me erano storditi. Forse per il piacere improvviso di questa nuova esperienza, o forse no. Spesso leggi sui giornali, o vedi in televisione, o ascolti alla radio, Radio Onda Rossa, notizie del genere. Ma creare la notizia è diverso. Ti rende partecipe degli eventi, sei protagonista. Gli amici si sono ripresi e mi hanno rimandato indietro a verificare la sorte del canide, e durante il tragitto che mi separava dal presunto delitto mi sono posto tre quesiti. Che fare in caso di ritrovamento di animale ferito? Che fare in caso di ritrovamento di animale deceduto? Che fare per arginare la piacevole curiosità di trovarlo morto? Perché vedere qualcosa che sta per diventare cadavere, o addirittura un cadavere la cui causa sei esclusivamente tu, sei tu, proprio tu, in prima persona, è emozionante, no? Continuavo a interrogare le sinapsi quando, giunto nella curva fatale, non vidi niente, né cadaveri, né bestie in agonia, niente di niente. O qualcuno se l'era caricato prima di me, o quello, ripresosi dalla botta e dallo spavento, se n'era tornato bel bello a casetta sua. L'insegnamento che ho tratto da questa curiosa vicenda è il seguente: per ottenere qualcosa si può arrivare a uccidere. Forse.